Devono essere passate le 23 perché già è intenso l'andirivieni al secchio accanto alla guardia di notte. È un tormento osceno e una vergogna indelebile. Ogni due, ogni tre ore ci dobbiamo alzare per smaltire la grossa dose di acqua che di giorno siamo costretti ad assorbire sotto forma di zuppa per soddisfare la fame. Quella stessa acqua che alla sera ci gonfia le caviglie e le occhiaie, impartendo a tutte le fisionomie una deforme rassomiglianza e la cui eliminazione impone ai reni un lavoro sfibrante. Non si tratta solo della processione al secchio. È legge che l'ultimo utente del secchio medesimo vada a vuotarlo alla latrina. È legge altresì che di notte non si esca dalla baracca se non in tenuta notturna, camicia e mutande, e consegnando il proprio numero alla guardia. Ne segue, prevedibilmente, che la guardia notturna cercherà di esonerare dal servizio i suoi amici, i connazionali e i prominenti. Si aggiunga ancora che i vecchi del campo hanno talmente affinato i loro sensi che, pur restando nelle loro cuccette, sono miracolosamente in grado di distinguere, soltanto in base al suono delle pareti del secchio, se il livello è o no al limite pericoloso, per cui riescono quasi sempre a sfuggire alla svuotatura. Perciò i candidati al servizio del secchio sono, in ogni baracca, un numero assai limitato, mentre i litri complessivi da eliminare sono almeno 200 e il secchio deve quindi essere vuotato una ventina di volte. In conclusione, è assai grave il rischio che incombe su di noi inesperti e non privilegiati ogni notte quando la necessità ci spinge al secchio. Improvvisamente la guardia di notte balza dal suo angolo e ci agguanta, si scarabocchia il nostro numero, ci consegna un paio di suole di legno e il secchio e ci caccia fuori in mezzo alla neve, tremanti e insonnoliti. A noi tocca trascinarci fino alla latrina, col secchio che ci urta i polpacci nudi, disgustosamente caldo. È pieno oltre ogni limite ragionevole e inevitabilmente, con le scosse, qualcosa ci trabocca sui piedi, talché, per quanto questa funzione sia ripugnante, è pur sempre preferibile esservi comandati noi stessi piuttosto che il nostro vicino di cuccetta. Così si trascinano le nostre notti. Il sogno di Tantalo e il sogno del racconto si inseriscono in un tessuto di immagini più indistinte. La sofferenza del giorno, composta di fame, percosse, freddo, fatica, paura e promiscuità, si volge di notte in incubi informi di inaudita violenza, quali nella vita libera occorrono solo nelle notti di febbre. Ci si sveglia a ogni istante, gelidi di terrore, con un sussulto di tutte le membra, sotto l'impressione di un ordine gridato da una voce piena di collera in una lingua incompresa. Ma per tutta la durata della notte, attraverso tutte le alternanze di sonno, di veglia e di incubo, vigila l'attesa e il terrore del momento della sveglia. Mediante la misteriosa facoltà che molti conoscono, noi siamo in grado, pur senza orologi, di prevederne lo scoccare con grande approssimazione. All'ora della sveglia, che varia da stagione a stagione, ma cade sempre assai prima dell'alba, suona a lungo la campanella del campo, e allora in ogni baracca la guardia di notte smonta, accende le luci, si alza, si stira e pronunzia la condanna di ogni giorno. Aufstehen, o più spesso in polacco, Wstawak. Pochissimi attendono dormendo lo Wstawak. È un momento di pena troppo acuta perché il sonno più duro non si sciolga al suo approssimarsi. La guardia notturna lo sa, ed è per questo che non lo pronunzia con tono di comando, ma con voce piana e sommessa, come di chi sa che l'annunzio troverà tutte le orecchie tese e sarà udito e obbedito. La parola straniera cade come una pietra sul fondo di tutti gli animi. Alzarsi. Allo Wstawak si rimette in moto la bufera. L'intera baracca entra senza transizione in attività frenetica. Ognuno si arrampica su e giù, rifà la cuccetta e cerca contemporaneamente di vestirsi in modo da non lasciare nessuno dei suoi oggetti incustodito. L'atmosfera si riempie di polvere fino a diventare opaca. I più svelti fendono a gomitate la calca per recarsi al lavatoio e alla latrina prima che vi si costituisca la coda. Immediatamente entrano in scena gli scopini e cacciano tutti fuori, picchiando e urlando. Quando io ho rifatto la cuccia e mi sono vestito, scendo sul pavimento e mi infilo le scarpe. Allora mi si riaprono le piaghe dei piedi e incomincia una nuova giornata. Il lavoro. Prima di Resnik, con me dormiva un polacco, di cui tutti ignoravano il nome. Era mite e silenzioso, aveva due vecchie piaghe alle tibie e di notte emanava un odore squallido di malattia. Era anche debole di vescica e perciò si svegliava e mi svegliava 8 o 10 volte per notte. Una sera mi ha lasciato i guanti in consegna ed è entrato in ospedale. Io ho sperato per mezz'ora che il furiere dimenticasse che ero rimasto solo occupante della mia cuccetta, ma quando già era suonato il silenzio, la cuccetta ha tremato e un tipo lungo e rosso, con il numero dei francesi di Drancy, si è arrampicato accanto a me. Avere un compagno di letto di statura alta è una sciagura. Vuol dire perdere ore di sonno. E a me toccano proprio sempre compagni alti, perché io sono piccolo e due alti insieme non possono dormire. Ma invece si è visto subito che Resnik, malgrado ciò, non era un cattivo compagno. Parlava poco e cortesemente. Era pulito, non russava, non si alzava che 2 o 3 volte per notte e sempre con molta delicatezza. Al mattino si è offerto di fare lui il letto. Questa è un'operazione complicata e penosa e inoltre comporta una notevole responsabilità, perché quelli che rifanno male il letto, gli schlechte Bettenbauer, vengono diligentemente puniti. E lo ha fatto rapidamente e bene, in modo che ho provato un certo fugace piacere nel vedere, più tardi in piazza dell'Appello, che è stato aggregato al mio comando. Nella marcia verso il lavoro, vacillanti nei grossi zoccoli sulla neve gelata, abbiamo scambiato qualche parola e ho saputo che Resnik è polacco. Ha vissuto 20 anni a Parigi, ma parla un francese incredibile. Ha 30 anni, ma, come a tutti noi, gliene potresti dare da 17 a 50. Mi ha raccontato la sua storia e oggi l'ho dimenticata, ma era certo una storia dolorosa, crudele e commovente, che tali sono tutte le nostre storie. Centinaia di migliaia di storie, tutte diverse e tutte piene di una tragica sorprendente necessità. Ce le raccontiamo a vicenda a sera e sono avvenute in Norvegia, in Italia, in Algeria, in Ucraina e sono semplici e incomprensibili come le storie della Bibbia. Ma non sono anch'esse storie di una nuova Bibbia? Quando siamo arrivati al cantiere ci hanno condotti all'Eisenröhre Platz, che è la spianata dove si scaricano i tubi di ferro. E poi hanno cominciato ad avvenire le solite cose. Il capo ha rifatto l'appello, ha preso brevemente atto del nuovo acquisto, si è accordato col Meister civile sul lavoro di oggi. Poi ci ha affidati al Vorarbeiter e se n'è andato a dormire nella capanna degli attrezzi, vicino alla stufa. Questo non è un capo che dia noia, perché non è ebreo e non ha paura di perdere il posto. Il Vorarbeiter ha distribuito le leve di ferro a noi e le binde ai suoi amici. È avvenuta la solita piccola lotta per conquistare le leve più leggere e oggi a me è andata male. La mia è quella storta, che pesa forse 15 chili. So che, se anche la dovessi adoperare a vuoto, dopo mezz'ora sarò morto di fatica. Poi ce ne siamo andati, ciascuno con la sua leva, zoppicando nella neve in disgelo. A ogni passo un po' di neve e di fango aderiscono alle nostre suole di legno, finché si cammina instabili su 2 pesanti ammassi informi di cui non ci si riesce a liberare. A un tratto uno si stacca, e allora è come se una gamba fosse un palmo più corta dell'altra. Oggi bisogna scaricare dal vagone un enorme cilindro di ghisa. Credo che sia un tubo di sintesi, peserà parecchie tonnellate. Per noi è meglio così, perché notoriamente si fatica di meno coi grandi carichi che coi piccoli. Infatti, il lavoro è più suddiviso e ci vengono concessi attrezzi adeguati, però siamo in pericolo. Non bisogna mai distrarsi, basta una svista di un attimo e si può essere travolti. Meister Nogalla in persona, il capomastro polacco, rigido, serio e taciturno, ha sorvegliato l'operazione di scarico. Ora il cilindro giace al suolo e Meister Nogal dice «Bohlen Holen». A noi si svuota il cuore. Vuol dire portare traversine per costruire nel fango molle la via su cui il cilindro verrà sospinto con le leve fin dentro la fabbrica. Ma le traversine sono incastrate nel terreno e pesano 80 chili. Sono all'incirca al limite delle nostre forze. I più robusti di noi possono, lavorando in coppia, portare traversine per qualche ora. Per me è una tortura. Il carico mi storpia l'osso della spalla. Dopo il primo viaggio sono sordo e quasi cieco per lo sforzo e commetterei qualunque bassezza per sottrarmi al secondo. Proverò a mettermi in coppia con Resnick, che pare un buon lavoratore, e inoltre, essendo di alta statura, verrà a sopportare la maggior parte del peso. So che è nell'ordine delle cose che Resnick mi rifiuti con disprezzo e si metta in coppia con un altro individuo robusto, e allora io chiederò di andare alla latrina e ci starò il più a lungo possibile, e poi cercherò di nascondermi con la certezza di essere immediatamente rintracciato, deriso e percosso. Ma tutto è meglio di questo lavoro. Invece no. Resnick accetta. Non solo, ma solleva da solo la traversina e me l'appoggia sulla spalla destra, con precauzione. Poi alza l'altra estremità, vi pone sotto la spalla sinistra e partiamo. La traversina è incrostata di neve e di fango. A ogni passo mi batte contro l'orecchio e la neve mi scivola nel collo. Dopo una cinquantina di passi sono al limite di quanto si suole chiamare la normale sopportazione. Le ginocchia si piegano, la spalla duole come stretta in una morsa, l'equilibrio è in pericolo. A ogni passo sento le scarpe succhiate dal fango avido, da questo fango polacco onnipresente, il cui orrore monotono riempie le nostre giornate. Mi mordo profondamente le labbra. A noi è noto che il procurarsi un piccolo dolore estraneo serve come stimolante per mobilitare le estreme riserve di energia. Anche i capos lo sanno. Alcuni ci percuotono per pura bestialità e violenza, ma ve ne sono altri che ci percuotono quando siamo sotto il carico, quasi amorevolmente, accompagnando le percosse con esortazioni e incoraggiamenti, come fanno i carrettieri coi cavalli volenterosi. Arrivati al cilindro, scarichiamo a terra la traversina. E io resto impalato, con gli occhi vuoti, la bocca aperta e le braccia penzoloni, immerso nell'estasi effimera e negativa della cessazione del dolore. In un crepuscolo di esaurimento attendo lo spintone che mi costringerà a riprendere il lavoro e cerco di profittare di ogni secondo dell'attesa per recuperare qualche energia. Ma lo spintone non viene. Resnick mi tocca il gomito, il più lentamente possibile ritorniamo alle traversine. Là si aggirano gli altri, a coppie, cercando tutti di indugiare quanto più possono prima di sottoporsi al carico. «Allons, petit attrape!» Questa traversina è asciutta e un po' più leggera, ma alla fine del secondo viaggio mi presento al Vorarbeiter e chiedo di andare alla latrina. Noi abbiamo il vantaggio che la nostra latrina è piuttosto lontana. Questo ci autorizza, una volta al giorno, a un'assenza un po' più lunga, che di norma, e inoltre, poiché è proibito recarvisi da soli, ne è seguito che Wachsmann, il più debole e maldestro del comando, è stato investito della carica di Scheißbegleiter, accompagnatore alle latrine. Wachsmann, per virtù di tale nomina, è responsabile di un nostro ipotetico, risibile ipotesi, tentativo di fuga e, più realisticamente, di ogni nostro ritardo. Poiché la mia domanda è stata accettata, me ne parto nel fango, nella neve grigia e tra i rottami metallici, scortato dal piccolo Wachsmann. Con questo non riesco a intendermi, perché non abbiamo alcuna lingua in comune, ma i suoi compagni mi hanno detto che è rabbino, e anzi un Melamed, un dotto della Torah, e inoltre, al suo paese, in Galizia, aveva fama di guaritore e di taumaturgo. Ne sono lontano dal crederlo, pensando come, così esile, fragile e mite, riesca da 2 anni a lavorare senza ammalarsi e senza morire, acceso invece di una stupefacente vitalità di sguardo e di parola, per cui passa lunghe sere a discutere di questioni talmudiche, incomprensibilmente, in yiddish e in ebraico, con Mendy, che è rabbino modernista. Thank you. La latrina è un'oasi di pace. È una latrina provvisoria che i tedeschi non hanno ancora provveduto delle consuete tramezze in legno che separano i vari scompartimenti. Nur für Engländer, nur für Polen, nur für ukrainische Frauen, e così via, e un po' in disparte, nur für Häftlinge. All'interno, spalla a spalla, siedono quattro Häftlinge famelici, un vecchio barbuto operaio russo con la fascia azzurra OST sul braccio sinistro, un ragazzo polacco con una grande P bianca sulla schiena e sul petto, un prigioniero militare inglese dal viso splendidamente rasato e roseo, con la divisa khaki nitida, stirata e pulita, a parte il grosso marchio KG, Kriegsgefangener, sul dorso. Un quinto Häftling sta sulla porta e ad ogni civile che entra sfilandosi la cintola chiede paziente e monotono: «Êtes-vous français?» Quando ritorno al lavoro, si vedono passare gli autocarri del rancio, il che vuol dire che sono le 10, e questa è già un'ora rispettabile, tale che la pausa di mezzogiorno già si profila nella nebbia del futuro remoto e noi possiamo cominciare ad attingere energia dall'attesa. Faccio con Resnik ancora 2 o 3 viaggi, cercando con ogni cura, anche spingendoci a cataste lontane, di trovare traversine più leggere, ma ormai tutte le migliori sono già state trasportate e non restano che le altre, atroci, dagli spigoli vivi, pesanti di fango e ghiaccio, con inchiodate le piastre metalliche per adattarvi le rotaie. Quando viene Franz a chiamare Wachsmann perché vada con lui a ritirare il rancio, vuol dire che sono le 11 e il mattino è quasi passato, e al pomeriggio nessuno pensa. Poi c'è il ritorno della corvée, alle 11:30, e l'interrogatorio stereotipo: quanta zuppa oggi e di che qualità, e se ci è toccata dal principio o dal fondo del mastello. Io mi sforzo di non farle queste domande, ma non posso impedirmi di tendere avidamente l'orecchio alle risposte e il naso al fumo che viene col vento dalla cucina. E finalmente, come una meteora celeste, sovrumana e impersonale come un segno divino, la sirena di mezzogiorno esplode a esaudire le nostre stanchezze e le nostre fami anonime e concordi. E di nuovo accadono le cose solite. Tutti accorriamo alla baracca e ci mettiamo in fila con le gamelle tese, e tutti abbiamo una fretta animalesca di perfonderci i visceri con l'intruglio caldo. Ma nessuno vuole essere il primo, perché al primo tocca la razione più liquida. Come al solito, il capo ci irride e ci insulta per la nostra voracità, e si guarda bene dal rimescolare la marmitta, perché il fondo spetta notoriamente a lui. Poi viene la beatitudine, positiva questa, e viscerale, della distensione e del calore nel ventre e nella capanna intorno alla stufa rombante. I fumatori, con gesti avari e pii, si arrotolano una magra sigaretta, e gli abiti di tutti, madidi di fango e di neve, fumano densi alla vampa della stufa, con odore di canile e di gregge. Una tacita convenzione vuole che nessuno parli. In un minuto tutti dormono, serrati gomito a gomito, cascando improvvisi in avanti e riprendendosi con un irrigidirsi del dorso. Di dietro alle palpebre appena chiuse, e rompono i sogni con violenza, e anche questi sono i soliti sogni: di essere a casa nostra, in un meraviglioso bagno caldo, di essere a casa nostra, seduti a tavola, di essere a casa e raccontare questo nostro lavorare senza speranza, questo nostro aver fame sempre, questo nostro dormire di schiavi. Poi, in seno ai vapori delle digestioni torpide, un nucleo doloroso si condensa e ci punge, e cresce fino a varcare le soglie della coscienza, e ci toglie la gioia del sonno. Es wird bald ein Uhr sein. È quasi la 1. Come un cancro rapido e vorace, fa morire il nostro sonno, e ci stringe di angoscia preventiva. Tendiamo l'orecchio al vento che fischia fuori, e al leggero fruscio della neve contro il vetro. Es wird schnell ein Uhr sein. Mentre ognuno si aggrappa al sonno perché non ci abbandoni, tutti i sensi sono tesi nel raccapriccio del segnale che sta per venire, che è fuori della porta, che è qui. Eccolo, un tonfo al vetro. Maestro Nogalla ha lanciato contro la finestrella una palla di neve, ed ora sta rigido in piedi fuori e tiene l'orologio col quadrante rivolto verso di noi. Il capo si alza in piedi, si stira e dice, sommesso come chi non dubita di essere obbedito: Alles heraus! Tutti fuori. Oh, poter piangere, poter affrontare il vento come un tempo facevamo, da pari a pari, e non come qui, come vermi vuoti di anima. Siamo fuori e ciascuno riprende la sua leva. Resnik insacca la testa fra le spalle, si calca il berretto sugli orecchi e leva il viso al cielo basso e grigio da cui turbina la neve inesorabile. Si j'avais un chien, je ne la chasse pas dehors.